Non faccio il purista, però di gente che pur di star, pur di farla star, ce n'è un'assurdità. Questo paese fra il Kurdistan, mi sono svegliato che era il medioevo. Non ci resta che piangere, la tua pagina è il museo del tuo ego. Con la musica a margine, quanto rido con i post che fai. Strappa lacrime, strappa like, tra un link al tubo e una Spotify. E un petto nudo alla Sport Spice. Senza aver mai fatto una canna parli anche di droga e riabilitazioni. Però c'è di peggio, chi si droga per dirlo dentro le canzoni. Dici talmente cazzate che secondo me qua tra poco ti candeggi. Con un bicchiere di capacità diluito in un mare di marketing. Finto impegnato, musica che non richiede l'impegno all'ascolto. Il colmo, se ti crescesse un cazzo lì su non farebbe di te un unicorno. Babbo. Curdi, attirare l'attenzione. Cambieresti sesso, cambieresti religione. Curdi, ti venderesti la madre. E ormai sei più di là che di qua. Dimmi per la fama cosa sei disposta a fare. Quanto puoi scavare, Kurdi? I soldi non dormono mai. Chiamami Gordon Gekko. Quindi se mi paghi rappo. Ma sai qual è l'unica cosa che lecco? Conosco un milione di tipe bro, tipo l'ex moglie di Tyson, che pur di far soldi ti fanno morire come fanno i pusher col taglio. Non contano più le canzoni, ma se le bambine fanno gli acquazzoni. Le tue uniche poche erezioni le hai quando fai le visualizzazioni. Pur di stare nelle news, uccideresti per fare più views. Morti di fama, morti di follower. Molti sui social raccontano frottole. Pur di restare in pista, sta gente l'ho vista fingersi artista, opinionista, pure attivista. Quanto mi rattrista il tuo Insta. Tu ti suicidi se non ti confermano. Muori se spengo lo schermo, mo. E se pensi che vende il transgender, tu te lo tagli come Caitlyn Jenner. Curdi, attirare l'attenzione. Cambieresti sesso, cambieresti religione. Curdi, ti venderesti la madre. E ormai sei più di là che di qua. Pensando ai tempi della scuola quando eri un mito, come sei finito, Kurdi? La vita non è fatta di quello che guadagni, ma soprattutto di ciò che perdi. Kurdi, stare sulla barca, annegheresti gli altri, e ora non hai più a fianco fratelli. Kurdi, attirare l'attenzione. Cambieresti sesso, cambieresti religione. Kurdi, ti venderesti la madre. E ormai sei più di là che di qua. Kurdi, attirare l'attenzione. Cambieresti sesso, cambieresti religione. Kurdi,